31esima traccia. Faceva caldo e dopo aver passeggiato per qualche tempo per i giardini in ordine sparso, neanche in tre insieme, inavvertitamente vennero uno dopo l'altro all'ombra deliziosa d'un largo e breve viale di tigli, che stendendosi al di là del giardino a ugual distanza dal fiume, sembrava por termine al giardino di piacere. Non menava a nient'altro che a una vista finale su un basso muro di pietra con alte colonne che, a sorgere lì, parevano intese a dar l'apparenza d'un approccio alla casa, che non era mai stato in quel punto. Ma, per discutibile che potesse essere il gusto d'un tal termine, il viale in sé era incantevole e la vista che lo chiudeva estremamente leggiadra. Il considerevole pendio di cui l'abbazia sorgeva quasi ai piedi diventava a poco più ripido al di là del giardino e a mezzo miglio di distanza era una ripa notevolmente scoscesa e grandiosa, tutta rivestita di bosco. E ai piedi di questa ripa, favorevolmente collocata e protetta, sorgeva la fattoria del mulino dell'abbazia, con prati dinanzi e il fiume che le faceva intorno una curva stretta e assai vaga. Era una vista molto attraente, attraente sia per l'occhio sia per lo spirito. Vegetazione inglese, coltivazione inglese, agiatezza inglese, vedute sotto un sole che sfavillava senza essere opprimente. In questo viale Emma e Mr. Weston trovarono riuniti tutti gli altri. E verso quella vista essa immediatamente scorse Mr. Nighty e Harriet che, distinti dal resto, pian piano facevano strada. Mr. Nighty e Harriet. Era una curiosa coppia, ma essa era lieta di vederla. C'era stato un tempo in cui egli avrebbe disprezzato la compagnia di Harriet o le avrebbe voltato le spalle senza tanti complimenti. Ora essi parevano impegnati in una piacevole conversazione. C'era stato anche un tempo in cui a Emma sarebbe dispiaciuto di vedere Harriet in un luogo così favorevole per la fattoria del mulino dell'abbazia. Ma adesso non ne aveva paura. La fattoria poteva essere guardata con calma, con tutte le sue appendici di prosperità e di bellezza. I suoi ricchi pascoli, le sue greggi sparse, l'orto fiorito e leggere colonne di fumo che si alzavano. Essa li raggiunse al muro e li trovò più impegnati a parlare che a guardare in giro. Knightley stava istruendo Harriet circa sistemi d'agricoltura e via dicendo, ed Emma ricevette un sorriso che sembrava dichiarare: «Questi sono affari miei. Io ho diritto di parlare di tali argomenti senza essere sospettato di introdurre Robert Martin». Emma non lo sospettava, era una storia troppo vecchia. Probabilmente Robert Martin aveva cessato di pensare a Harriet. Fecero qualche giro insieme lungo il viale. L'ombra era assai rinfrescante ed Emma trovò questa la parte più piacevole della giornata. Indi si recarono alla casa. Tutti dovevano entrare a mangiare ed erano tutti seduti e affaccendati. E Frank Churchill ancora non arrivava. Mrs. Weston guardava e guardava invano. Il padre di Frank non voleva confessare d'essere inquieto e rideva delle paure di lei, ma essa non poteva venir curata del desiderio che egli si disfacesse della sua cavalla nera. Egli si era espresso nel senso che sarebbe venuto con una sicurezza più che ordinaria. Sua zia stava tanto meglio che egli non dubitava di venire. Tuttavia, lo stato di Mrs. Churchill, come molto prontamente le ricordarono, era soggetto a mutamenti così subitanei da poter dare un disappunto al nipote anche laddove egli aveva ragione di fare ogni assenamento. E alla fine Mrs. Weston venne persuasa a credere o a dire che doveva essere per via ad un attacco improvviso di Mrs. Churchill che egli era stato impedito di venire. Emma guardava Harriet mentre veniva discusso questo punto. Il suo contegno fu eccellente. Essa non tradì emozione alcuna. Terminò il pasto freddo e la comitiva doveva uscire di nuovo per vedere quel che non era stato ancora veduto. Le antiche peschiere dell'abbazia. Forse arrivare fino ai campi di trifoglio, che doveva cominciare a tagliarsi il giorno dopo, o in ogni caso avere il piacere di sentir caldo per poi rinfrescarsi di nuovo. Mr. Woodhouse, che aveva già fatto il suo piccolo giro nella parte più alta del giardino, dove neanche lui immaginava che salisse umidità dal fiume, non si mosse più. E sua figlia risolvette di rimanere con lui, affinché Mrs. Weston potesse lasciarsi convincere dal marito a godere di quel moto e di quella varietà che il suo spirito sembrava richiedere. Mr. Knightley aveva fatto quant'era in suo potere per divertire Mr. Woodhouse. Libri con incisioni, cassettini di medaglie, cammei, coralli, conchiglie e ogni altra collezione della famiglia nei suoi armadi era stata preparata per il suo vecchio amico per passare la mattina. E tale cortesia aveva perfettamente corrisposto allo scopo. Mr. Woodhouse si era divertito immensamente. E Mrs. Weston era venuta mostrandogli tutte quelle cose. E ora egli le avrebbe mostrate tutte a Emma. Fortunato di non avere altra rassomiglianza con un bambino che in una totale mancanza di gusto per ciò che egli vedeva, perché egli era lento, costante e metodico. Tuttavia, prima che cominciasse questo secondo esame, Emma andò nell'atrio per osservare liberamente per qualche istante l'ingresso e il terreno della casa. Ed era appena giunto là quando apparve Jane Fairfax, che veniva rapidamente dal giardino e con un'aria di fuga. Non aspettandosi di imbattersi così presto in Miss Woodhouse, ebbe dapprima un sussulto. Miss Woodhouse era proprio la persona di cui andava in cerca. «Volete farmi la cortesia?» disse. «Quando chiedono di me di dire che sono andata a casa? Me ne sto andando proprio ora. Mia zia non si è accorta come si è fatto tardi, né quanto tempo siamo rimasti assenti. Ma io sono sicura che ci sarà bisogno di noi e sono decisa ad andarmene subito. Non ne ho fatto parola con alcuno. Causerebbe soltanto disturbo e pena. Alcuni sono andati alle peschiere e alcuni al viale dei tigli. Non si accorgeranno della mia assenza finché non saranno rientrati tutti. E quando se ne accorgeranno, volete avere la bontà di dire che me ne sono andata? Certo, se lo desiderate, ma non tornerete mica a piedi Highbury da sola? Sì, che potrebbe succedermi di male? Io vado in fretta, sarò a casa in 20 minuti. Ma è troppo lontano, davvero, per camminare da sola. Lasciate che v'accompagni il domestico di mio padre. Lasciate che io ordini la carrozza. Può essere qui in 5 minuti. Grazie, grazie, ma a nessun costo. Preferisco passeggiare. E che debba aver paura di camminare da sola io, che così in breve potrò essere incaricata di sorvegliare altri. Essa parlava con grande agitazione. Ed Emma rispose molto assennatamente. Questa non è una buona ragione perché vi esponiate a un pericolo adesso. Debbo ordinare la carrozza. Anche il caldo costituirebbe un pericolo. Siete già stanca. Lo sono, essa rispose. Sono stanca, ma non è quel genere di stanchezza. Una buona passeggiata mi rinfrescherà. Miss Woodhouse, noi sappiamo tutti qualche volta ciò che significa essere stanchi di spirito. Il mio, lo confesso, è esausto. La più gran cortesia di cui mi possiate dar prova sarà di lasciarmi fare come desidero e di dire soltanto che io me ne sono andata allorché è necessario. Emma non aveva nulla da replicare. Vide come stavano le cose e, immedesimandosi nel sentimento di Jane, l'aiutò ad andarsene immediatamente e vigilò che se ne andasse indisturbata, con lo zelo di un'amica. L'ultimo sguardo di Jane fu di gratitudine e le sue parole «Miss Woodhouse, che conforto essere qualche volta sole», sembrò scoppiare da un cuore oppresso e descrivere un po' della continua sopportazione che essa doveva praticare perfino verso alcuni di coloro che più l'amavano. «Una casa come quella, una zia come quella», si disse Emma mentre rientrava nell'atrio. «Ho compassione di voi, e più tradite la vostra sensibilità per i loro innegabili orrori, più mi riuscirete simpatica». Jane non se n'era andata da un quarto d'ora ed Emma e suo padre avevano appena finito di contemplare alcune vedute di Piazza San Marco a Venezia, allorché Frank Churchill entrò nella stanza. Emma non aveva pensato a lui, si era dimenticata di pensare a lui, ma fu assai lieta di vederlo. Mrs. Weston sarebbe ora tranquilla. La cavalla nera era irreprensibile. Avevano ragione coloro che avevano detto che la causa era Mrs. Churchill. Egli era stato trattenuto da una temporanea ripresa di male di lei, un attacco nervoso che era durato per qualche ora, ed egli aveva abbandonato affatto ogni idea di venire, fino a molto tardi. E se avesse saputo che cavalcata calda avrebbe avuto e come sarebbe giunto tardi, con tutta la sua fretta, credeva che non sarebbe venuto per niente. Il caldo era eccessivo, non ne aveva mai sofferto di simile. Desiderava quasi di essere rimasto a casa. Nulla l'ammazzava quanto il caldo. Poteva tollerare ogni grado di freddo, ma il caldo era intollerabile ed egli si sedette alla più grande distanza possibile dagli esigui resti del fuoco di Mr. Woodhouse, con un'aria molto compassionevole. «Vi rinfrescherete presto se state seduto calmo calmo», disse Emma. «Appena mi sentirò un po' più fresco dovrò tornarmene. Ho potuto disimpegnarmi a stento, ma avevano tanto insistito perché venissi. Immagino che tra un momento ve ne andrete tutti. La riunione sta per sciogliersi. Ho incontrato una mentre stava venendo. Che pazzia con questo tempo, un'assoluta pazzia». Emma ascoltava e guardava e presto si accorse che lo stato di Frank Churchill non poteva meglio definirsi che con l'espressione malumore. C'erano alcuni che quando sentivano caldo erano sempre irritati. Tale poteva essere la sua costituzione. E siccome egli sapeva che mangiare e bere erano spesso la cura di tali disturbi accidentali, gli raccomandò di prendere un po' di rinfresco. Avrebbe trovato abbondanza di tutto nella sala da pranzo e, umanamente, indicò la porta. No, non avrebbe mangiato, non aveva fame, e gli avrebbe fatto sentire ancora più caldo. Dopo due minuti, tuttavia, cedette a favore di se stesso e, mormorando qualcosa intorno alla birra da bette, uscì dalla stanza. Emma diede di nuovo tutta la sua attenzione a suo padre, dicendo tra sé e sé: «Son lieta che ho finito d'essere innamorata di lui. Non mi piacerebbe un uomo che s'altera così presto per una mattinata calda. Il mite e facile carattere di Harriet non ci farà caso». Fu assente abbastanza da avere un pasto molto sostanzioso e tornò sentendosi molto meglio, tutto rinfrescato e con maniere affabili, ridiventato se stesso, capace di avvicinare ad essi una seggiola, interessarsi alla loro occupazione e rammaricarsi in modo ragionevole d'essere arrivato tardi. Non era del suo umore migliore, ma sembrava cercare di darsene l'aria, e alla fine si mise a dire sciocchezze molto piacevolmente. Stavano guardando vedute della Svizzera. «Appena mia zia si sarà rimessa, andrò all'estero», disse egli. «Non mi darò pace finché non avrò visto qualcuno di quei posti. Un giorno o l'altra avrete i miei schizzi da guardare, o il mio giro da leggere, o il mio poema. Farò qualcosa per mettermi in mostra». «Ciò potrà avvenire, ma non per via di schizzi fatti in Svizzera. In Svizzera non ci andrete mai. Il vostro zio e la vostra zia non vi permetteranno mai di lasciare l'Inghilterra. Anche loro possono venire indotti ad andarci. Potrà essere prescritto a lei un clima caldo. Ho più che mezza speranza che si vada tutti all'estero. Vi assicuro che ce l'ho. Stamattina mi sento una forte convinzione che presto sarò all'estero. Io dovrei viaggiare. Sono stanco di non far niente. Ho bisogno di cambiare aria. Dico sul serio, Miss Woodhouse, qualunque cosa possano immaginare i vostri occhi penetranti. Sono stufo dell'Inghilterra e la lascerei domani se potessi. Siete stanco del benestare e del fare i vostri comodi. Non potete inventarvi un po' di privazioni e contentarvi di rimanere? Io stanco del benestare e del fare i miei comodi? Vi sbagliate di grosso. Io non ritengo di godere né dell'una cosa né dell'altra. Io sono ostacolato in ogni cosa materiale. Non mi considero affatto un essere fortunato. Tuttavia, non siete così infelice come quando siete arrivato. Andate a mangiare e a bere un po' di più e starete benissimo. Un'altra fetta di carne fredda, un altro bicchiere d'acqua e Madeira vi metteranno quasi alla pari col resto di noi. No, non mi muoverò. Starò seduto presso di voi. Voi siete la mia cura migliore. Domani andiamo a Box Hill. Voi verrete con noi. Non è la Svizzera, ma sarà qualcosa per un giovanotto che ha tanto bisogno di un cambiamento. Volete rimanere e venire con noi? No, no, davvero, tornerò a casa col fresco della sera. Ma potete tornare di nuovo, col fresco di domattina. No, non ne varrà la pena, se io vengo sarà d'umor nero. Allora vi prego di rimanere a Richmond. Ma se ci rimango sarò d'umore ancora più nero. Non posso tollerare di pensare che tutti voi siete là senza di me. Queste sono difficoltà che dovete appianare da voi. Scegliete il vostro grado di malumore. Io non vi solleciterò più. Il resto della comitiva stava allora tornando e in breve furono tutti riuniti. Molti provarono un gran piacere alla vista di Frank Churchill. Altri presero la cosa con molta calma, ma ci fu un senso generale di pena e di agitazione quando venne spiegata la scomparsa di Miss Fairfax. Siccome era tempo che tutti se ne andassero, ebbero fine le discussioni sull'argomento e con brevi disposizioni finali per il progetto del giorno seguente si separarono. L'inclinazione di Frank Churchill di escludere se stesso diminuì talmente che le sue ultime parole a Emma furono: «Ebbene, se desiderate che io rimanga e prenda parte alla gita, rimarrò». Essa sorrise, e soltanto un'ingiunzione da Richmond doveva farlo tornare prima della sera seguente. Ebbero una magnifica giornata per Box Hill. E tutte le altre circostanze esterne di disposizioni, posti e puntualità erano in favore d'una gita piacevole. Mr. Weston prese la direzione di tutto, servendo da intermediario tra Harfield e la canonica, e ognuno arrivò per tempo. Emma e Harriet andarono insieme, Miss Beth e sua nipote con gli Elton, i signori a cavallo. Mrs. Weston rimase con Mr. Woodhouse. Non mancava altro che esser lieti quando furono giunti colà. Fu fatto un viaggio di 7 miglia nell'attesa di godimento e ognuno ebbe un'esplosione di ammirazione appena arrivato. Ma il bilancio della giornata fu passivo. C'erano una languidezza, una mancanza di brio, una mancanza d'unione che riuscirono insuperabili. Troppo si divisero in gruppi. Gli Elton camminavano insieme. Mr. Knightley si incaricò di Miss Bates e di Jane. Ed Emma e Harriet si misero con Frank Churchill. E Mr. Weston cercò invano di farli armonizzare meglio. Dapprima sembrò una divisione accidentale, ma non cambiò mai sostanzialmente. Mr. e Mrs. Elton, in vero, non mostrarono alcuna avversione a mescolarsi con gli altri e ad essere quanto più potevano gradevoli. Ma durante le 2 ore intere che furono passate sulla collina, sembrava esserci un principio di separazione tra gli altri gruppi, troppo forte perché potessero eliminarlo una bella vista o una merenda fredda o l'allegria di un Mr. Weston. Da principio Emma provò una noia completa. non aveva mai visto Frank Churchill così silenzioso e stupido. Non diceva nulla che valesse la pena d'ascoltare. Guardava senza vedere, ammirava senza intelligenza, ascoltava senza sapere quel che lei diceva. Mentre egli era così noioso, non c'era da stupirsi che anche Harriet lo fosse, ed entrambi furono insopportabili. Fu meglio quando tutti si sedettero, un bel po' meglio per il gusto di Emma, perché Frank Churchill diventò loquace e gaio, facendo di lei il suo oggetto principale. Ogni speciale attenzione che poteva venir tributata le fu tributata. Divertirla e riuscir piacevole ai suoi occhi sembrava tutto quel che gli stesse a cuore. Ed Emma, lieta di essere rianimata, non dispiacente di essere adulata, diventò pure gaia e disinvolta e gli diede tutto l'amichevole incoraggiamento, il permesso di essere galante che ella gli aveva dato nel primo e più vivace periodo dei loro rapporti, ma che ora, a opinione di lei, non significava nulla, sebbene, a giudizio della maggior parte degli osservatori, dovesse avere un'aria che nessun'altra parola inglese, se non flirt, poteva adeguatamente descrivere. Mr. Frank Churchill e Miss Woodhouse flirtavano eccessivamente. Essi si esponevano proprio a codesta frase e a farla scrivere in una lettera a Maple Grove da parte di una signora e in una lettera per l'Irlanda da parte di un'altra. Non che Emma fosse gaia e spensierata per una reale felicità. Era piuttosto perché si sentiva meno felice di quanto si era attesa. Rideva perché era delusa. E sebbene trovasse simpatiche le attenzioni del giovane e le ritenesse tutte, sia che fossero dettate da amicizia o da ammirazione o da voglia di scherzare, molto giudiziose, esse non riconquistavano però il suo cuore. Ella non lo destinava ad essere altro che un amico. «Quanto vi sono obbligato», diceva egli, «per avermi detto di venire oggi, non fosse stato per voi, certo, avrei perduta tutta la gioia di questa gita. Avevo proprio deciso di ripartire. Sì, eravate molto irritato, e non so a proposito di che, se non perché eravate giunto troppo tardi per le migliori fragole. Io sono stato un'amica più gentile di quanto meritavate, ma voi eravate umile, pregavate caldamente che vi si ordinasse di venire. Non dite che ero irritato, ero stanco. Il caldo m'aveva sopraffatto. Fa più caldo oggi. Non a mio modo di sentire. Oggi mi sento benone. Vi sentite benone perché siete dominato. Dominato da voi? Sì. Forse io intendevo che voi diceste così, ma volevo significare perché vi siete dominato. Ieri, in un modo o nell'altro, avevate rotto le barriere ed eravate sfuggito alla padronanza di voi stesso. Ma oggi ci siete tornato dentro, e siccome io non posso essere sempre con voi, è meglio credere che il vostro carattere sia sotto il vostro dominio che sotto il mio. Viene ad essere la stessa cosa. Non posso aver padronanza di me senza un motivo. Voi mi comandate, sia che parliate o no. E voi potete essere sempre con me. Voi siete sempre con me. A datare dalle 3 di ieri, il mio perpetuo influsso non poteva essere cominciato prima, altrimenti prima non sareste stato così di malumore. Dalle 3 di ieri, questa è la vostra data. Io credevo d'avervi veduta per la prima volta in febbraio. La vostra galanteria davvero non può ricevere risposta, ma, abbassando la voce, nessuno parla all'infuori di noi, ed è un po' troppo dire sciocchezze per divertire 7 persone silenziose. Io non dico nulla di cui debba aver vergogna, rispose lui con vivace impudenza. Vi ho vista per la prima volta in febbraio. Che tutti quelli che sono sulla collina mi sentano se possono. Che i miei accenti echeggiano fino a Michelem, da una parte, a Dorking dall'altra. Vi ho vista la prima volta in febbraio, e poi sussurrando. I nostri compagni sono eccessivamente intontiti, Che dobbiamo fare per riscuoterli? Ogni sciocchezza andrà bene, così parleranno. Signore e signori, ricevo l'ordine da Miss Woodhouse, la quale, dovunque sia, presiede di dire che essa desidera sapere che cosa state pensando. Alcuni risero e risposero con buon umore. Miss Bates disse un sacco di cose. Mrs. Elton si gonfiò di sdegno all'idea che Miss Woodhouse presiedesse. La risposta di Mr. Knightley fu la più distinta. «È proprio sicura, Miss Woodhouse, che le piacerebbe di sentire che cosa pensiamo tutti?» «Oh, no, no!» esclamò Emma, ridendo con quanta più noncuranza poté. «Per nessuna ragione al mondo. È l'ultima cosa di cui vorrei sostenere l'urto adesso. Fatemi sentire qualunque cosa, eccetto quel che pensate tutti. Non dirò proprio tutti. Di uno o due di voi, forse, dando un'occhiata a Mr. Weston e a Harriet, potrei non aver paura di conoscere i pensieri». «È un genere di cose», esclamò in tono deciso Mrs. Elton, «in cui io non avrei creduto d'avere il privilegio di indagare. Sebbene, forse, in qualità di chaperon della comitiva, io non mi sono trovata mai in nessun circolo, disse d'esplorazione, signorine, donne maritate. I suoi borbottì erano diretti specialmente al marito, ed egli mormorò rispondendo, verissimo, amor mio, verissimo, proprio così, davvero inaudite, ma certe signore dicono qualunque cosa. È meglio farlo passare per uno scherzo. Ognuno sa il riguardo che ti è dovuto». «La cosa non va», sussurrò Frank a Emma. «La maggior parte di loro se la son presa male. Li attaccherò con più destrezza. Signore e signori, Miss Woodhouse mi ordina di dire che rinunzia al suo diritto di sapere esattamente che cosa possiate pensare tutti e chiede a ognuno di voi soltanto qualcosa di molto divertente in modo generico. Siete in sette, oltre me, che essa ha la bontà di dire... Già, sono molto divertente, e chiede solo a ognuno di voi o una cosa molto brillante, sia in prosa che in versi, originale o ripetuta, o due cose moderatamente brillanti, o tre cose molto scipite davvero, e si impegna a ridere di cuore di tutto. «Oh, benissimo!» esclamò Miss Bates. «Non ho da preoccuparmi. Tre cose molto scipite davvero,